Anni or sono rimasi molto impressionato dal problema dei pulcini. Ad un certo punto della loro vita, un punto che arriva molto presto, devono essere buttati o nello scatolone di destra o in quello di sinistra, in base al sesso. E la cosa, come ogni cosa nelle società in cui il tempo è coniugato al denaro, deve essere fatta alla svelta, con oculatezza, precisione e alla svelta. Sembra che fosse impresa non di poco conto, non dico centrare lo scatolone, ma distinguerne il sesso. All'uopo, come sommo caso di manodopera specializzata, venivano importati nel nostro paese coorti di sessuatori giapponesi. Sembra che come riconoscessero il sesso dei pulcini loro non ci riuscisse nessuno. Perché i giapponesi siano stati baciati da questa facoltà lo sa Dio. Anche riconoscere il sesso delle iene maculate può essere un problema. A quanto afferma David Creaves sulle scienze del marzo scorso, la femmina non presenta una vagina esterna, bensì un cospicuo sacco scrotale munito di due cuscinetti adiposi ben rigonfi che chiunque sarebbe autorizzato a ritenere testicoli. Il fatto poi che questa stessa iena maculata sia anche fornita di una clitoride erettile di ingentissime proporzioni che ama esibire festosamente nei rituali di saluto non può che favorire ulteriori e imbarazzanti abbagli. Se uno ha coraggio e pazienza e va a vedere, ben inteso, scopre che sotto sotto le cose stanno diversamente, ma intanto lo scopo del progetto morfogenetico è già raggiunto. La femmina della iena maculata domina il branco e per chi non si sottomette sono dolori. Lo stesso Creaves parla degli Amphifrion percula, pesci ermafroditi sequenziali che nel corso della vita, a seconda delle condizioni per numero e struttura sociale della popolazione di cui fanno parte, cambiano il proprio sesso. Il tutto per dimostrare in modo inequivocabile che, alla luce della biologia, qualsiasi rigida divisione tra maschi e femmine è del tutto inadeguata scientificamente e fonte di vergognose speculazioni ideologiche. Intorno alle difficoltà di riconoscimento viene anche in mente un mollusco parassita, l'Enteroxenos, studiato da Lutzen e citato da Gould in quel bel libro che era Quando i cavalli avevano le dita, qualcuno lo ricorderà, di una decina di anni fa. Le prime osservazioni avevano condotto alla convinzione che questo pesce si trattasse di un ermafrodita. Non avendo voglia di lavorare, l'Enteroxenos lo si ritrovava infilato comodamente nell'intestino dei cetrioli di mare, e a qualcuno non era sfuggito quel robino indecifrabile che gli aderiva in un punto qualsiasi dell'epidermide, quello stesso robino che altri avevano considerato alla stregua di una casuale sporcizuola o di una malaugurata escrescenza. Robino che, invece, si scoprì essere il maschio. Il maschio che si introduce nel cetriolo di mare, che raggiunge la sua femmina, che le si attacca, che man mano ne viene risucchiato tutto intero, organo dopo organo, fino a ridursi a puri testicoli, cioè a produttore di quello sperma che servirà alla femmina per riprodurre la specie. C'è voluto dell'acume, insomma, per riconoscere il maschio in quel che ne rimaneva, e il fatto che la femmina, dopo il suo arrivo, gli precluda ogni possibilità di fuga occludendo il cunicolo di comunicazione con l'esterno, getta sui destini e sul buon umore di questo nostro compagno di strada più di un'ombra di inquietudine. Difficoltà quasi insormontabili, a quanto sembra, si incontrano per stabilire il sesso degli alieni. Lo psichiatra John Mack ha sottoposto ad ipnosi tutta una serie di americani che sostengono di essere stati rapiti dagli alieni, trasportati sulle loro astronavi e infine rilasciati dopo dure prove subite, fra le quali vanno segnalate le numerose masturbazioni di cui gli alieni sembrerebbero essere autentici cultori. Tutti costoro condividerebbero l'opinione che la differenza sessuale degli alieni non avrebbe alcun riscontro anatomico, ma che, essendoci comunque come, sarebbe affidata ad una sorta di conoscenza ineffabile, non esprimibile a parole. Tutto ciò dimostra la bontà degli alieni, perlomeno nei confronti degli psichiatri, cui forniscono sintomi facilmente riconducibili ai loro più frusti modelli di spiegazione. In materia di riconoscimento del sesso, allora, è da ammettersi che la natura offra i casi più disparati, nonché a volte i casi più disperati. La signorina Paula Corbin Jones, invece, almeno una volta nella sua vita non ha incontrato soverchie difficoltà. A quanto dice nell'interazione sociale in questione Bill Clinton, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, si è calato braghe e mutande e lei ha potuto riconoscere il sesso senza titubanza alcuna. Anzi, come è pronta a riferirne in tribunale, quel sesso lo riconoscerebbe fra mille, perché a suo dire, citazione, l'area genitale del presidente presenta caratteristiche particolari. È inutile sottolineare come la rivelazione di queste caratteristiche possa costituire un motivo di progresso per l'umanità studiosa. Nel frattempo abbiamo appreso dell'analogia tra Clinton e le iene maculate. È la loro forma di abituale saluto.